denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e bentornati ad una nuova puntata di Cuore Denari. Oggi sono da sola, Deborah però torna domani, ma non mancano naturalmente nel nostro menù i temi di denari. Anzi, c'è un tema che da solo, come si dice, basta e avanza. Se volessimo parlarne tutti i giorni, avremmo materiale a sufficienza per almeno un centinaio di puntate. L'argomento in questione sono le pensioni e il motivo per cui torniamo stamattina a parlarne è legato all'attualità. Avrete avuto modo di sentire che il governo potrebbe, il condizionale d'obbligo, dato il vespaio di polemiche che si è sollevato, intervenire su quelle di reversibilità, cioè quelle percepite da chi resta vedovo quando il coniuge che riceveva una pensione naturalmente viene a mancare. L'obiettivo è quello di razionalizzare questi contributi e renderne la distribuzione più equa, quindi non erogare o diminuire queste pensioni dove non ce ne sarebbe una reale necessità. Insomma, le regole potrebbero cambiare, ma ancora non c'è niente di certo. A noi intanto è sembrato utile fare un po' un punto della situazione sulla pensione di reversibilità per capire come funziona attualmente, rispondendo alle vostre domande, e lo faremo nella prima parte della nostra trasmissione. Bene, questa è invece la prova di ammissione alla seconda parte della puntata. Quali e quanti suoni erano? 800240024, restate con noi oggi e subito dopo il nostro GR, udite udite, parleremo di suoni, fischi, ronzio, ovattamenti e delle occasioni in cui l'udito sembra meno sensibile ai suoni, come se fosse un po' in difficoltà. Può capitare di avere la sensazione di sentirci meno bene in mezzo al traffico, in luoghi affollati, quando siamo in treno, in fase di decollo, quando l'orecchio si tappa o quando intratteniamo una conversazione al telefono o ancora ascoltiamo la radio o la TV, oppure quando siamo molto concentrati, e qui si spiegano molte cose. Quante volte dovete chiamare i vostri figli o vostro marito prima che risponda per dirvi che non aveva sentito nulla? Insomma, chiamateci, non fate orecchie da mercante. 800240024, questo è il tema della seconda parte di Cuore e Denari. 3 per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48, 3 per 9. Allora, la nostra pagina di denari oggi è dedicata alle pensioni di reversibilità. Iniziamo con qualche numero. Nel 2015 le nuove pensioni di reversibilità erogate sono state 183.085, erano state 189.291 nel 2014. L'importo medio è abbastanza basso, circa 650 euro, perché sappiamo che si tratta solo di una percentuale dell'assegno originario che veniva ricevuto dal coniuge. Ma facciamo un passo indietro e ci facciamo spiegare meglio che cos'è la pensione di reversibilità dal nostro esperto, il dottor Fabio Venanzi, esperto di questioni previdenziali per il Sole 24 Ore. Buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, una definizione sintetica per non fare confusione. Di cosa stiamo parlando? Cos'è in breve la pensione di reversibilità che alcuni italiani già percepiscono? La pensione di reversibilità è quella prestazione economica erogata dall'istituto previdenziale in favore di familiari del soggetto deceduto in quanto già pensionato, e quindi in questo caso parliamo di pensione di reversibilità, oppure se il dante causa, la persona che avrebbe diritto a pensione, muore in costanza d'attività lavorativa o comunque quando non è ancora pensionato, allora parliamo di pensione indiretta. Genericamente parliamo di pensioni ai superstiti. Ok, allora veniamo, dottor Venanzi, alla notizia di attualità che ci fa tornare su questo tema. Il disegno di legge sulla povertà è approvato la scorsa settimana in commissione lavoro alla Camera, prevede tra le altre cose proprio il rinnovo della pensione di reversibilità. Noi non ci soffermeremo su questo oggi perché ancora non c'è nulla di certo, vero dottor Venanzi? Esattamente, ecco. Infatti c'è solo una proposta di legge, poi è una proposta di legge di decreto legislativo delegato, quindi insomma siamo proprio nella fase iniziale. Ecco, ma gli eventuali cambiamenti varranno per chi riceve già una pensione di reversibilità oppure per chi potrebbe iniziare a percepirla in futuro? Iniziamo a fare questo. Le indiscrezioni che circolano al momento riguardano solo le pensioni future, nel senso che i soggetti che ad oggi già sono titolari di una pensione di reversibilità comunque non dovrebbero essere interessate dal disegno di legge. Bene. Per Sì, perché no. Di fatto parliamo di una revisione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di alcune altre prestazioni che in termine tecnico vengono definite sottoposte alla prova dei mezzi, cioè tutte quelle serie di prestazioni che per essere concesse comunque hanno una verifica poi reddituale in capo al soggetto che materialmente le deve percepire. Allora, intanto io invito i nostri ascoltatori ad comporre il nostro numero verde 800 24 00 24. Potete come sempre scriverci un sms al 349 238 6666 oppure mandarci un WhatsApp. Allora, Venanzi, possiamo dire che lei ci ha un po' tranquillizzato, no? Almeno ha tranquillizzato chi già vive con una pensione di reversibilità. Bene, allora andiamo a fare il punto su tutte le regole attualmente in vigore per l'erogazione di questi contributi. Non sappiamo ancora se, quando e come cambieranno, ma anche in quel caso il primo passo per capire cosa succederà è avere le idee chiare sulle regole attualmente in vigore, se no come si fa? E quindi il nostro numero verde è a vostra disposizione, chiamateci se nella vostra famiglia state affrontando questa situazione, se purtroppo è venuta a mancare una persona che percepiva una pensione sulla quale altri facevano affidamento a partire dal coniuge. Venanzi, intanto specifichiamo bene chi ne ha diritto, perché in realtà non basta dire coniuge superstite. È corretto? Sì, esatto, infatti la platea di potenziali beneficiari di una pensione indiretta di reversibilità è comunque più ampia. Sicuramente troviamo il coniuge superstite in quanto tale ha diritto, a prescindere da qualsiasi altra condizione, se era a carico o se non era a carico, comunque il coniuge superstite spetta il 60% del trattamento cui avrebbe avuto diritto. Poi ci sono tutta un'altra serie di categorie, abbiamo anche il coniuge superstite se è separato, esatto, con addebito. Separato o divorziati, come ci si organizza in questi casi? Allora, per il coniuge separato bisogna stabilire se il tribunale gli aveva riconosciuto o meno il diritto all'assegno di mantenimento, invece per il coniuge divorziato se era titolare di assegno divorzile. In caso di più coniugi divorziati, perché poi la giurisprudenza su questo insegna, deve essere il giudice che va a stabilire qual è la percentuale di riparto tra i diversi coniugi divorziati in funzione anche della durata del matrimonio. Per in qualche modo cercare di capire quanto spetta, ci sono delle percentuali, immagino, sì, no? Ci sono da delle considerare, percentuali, esattamente, a seconda se è un solo coniuge figlio, immagino, esatto, un po' esatto. La composizione del nucleo familiare che è restante, no? Allora, dipende, perché mentre abbiamo detto prima che al coniuge spetta comunque il 60% come valore massimo, perché sì, poi in realtà vediamo che questo valore potrebbe anche diminuire, partecipano anche alla pensione indiretta gli eventuali figli minorenni, a condizione che erano appunto a carico del deceduto al momento del verificarsi dell'evento, e in qual caso la percentuale sale all'80%, quindi 60 al coniuge e il 20 aggiuntivo al figlio. Se ci sono invece due o più figli, in quel caso viene erogato il trattamento pensionistico per intero e quindi una percentuale pari al 100%. Se invece il soggetto muore lasciando solo un figlio, quindi senza coniuge perché magari già deceduto anch'esso, allora in quel caso al figlio spetterà il 70% del trattamento calcolato in capo al soggetto deceduto. Ma lei mi parla di figli, ma dottor Venanzi, sempre in ogni caso, anche se sono economicamente indipendenti, non credo. No, allora certo che no, perché i figli adottivi e affiliati, perché non ci dobbiamo dimenticare che noi genericamente per comodità parliamo di figli, ma sia figli naturali sia anche gli altri adottati o comunque quelli riconosciuti, sì, che alla data della morte del lavoratore erano comunque minori, perché se fossero maggiorenni invece dovremmo andare a vedere se sono studenti universitari con un'età diciamo compresa tra il 21esimo e il 26esimo anno di età. Sono invece hanno sempre diritto alla percezione della pensione di reversibilità gli eventuali figli anche maggiorenni qualora inabili, ma a carico del lavoratore al momento del decesso. Dottor Venanzi. Poi abbiamo anche appunto altre categorie diciamo marginali, come possono essere i nipoti minori se sono a carico degli ascendenti, e quindi nel caso parliamo di nipote nei confronti dei nonni, anche se non formalmente non sono affidati a loro, ancorché fossero a carico degli stessi alla data alla data della morte del lavoratore stesso. Allora, 800 24 00 24, prima di andare a sentire il traffico, voglio dare il benvenuto a Luca che ci chiama da Asti. Luca, buongiorno. Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Eccola qui. Vuole fare la sua domanda al nostro esperto e poi chiediamo al dottor Venanzi di annotarsi tutto e di rispondere dopo le informazioni sul traffico. Grazie Luca. Allora, più che una domanda è una considerazione. Bene. Ho 53 anni, sposato, quando ci siamo sposati mia moglie ha deciso di dedicarsi alla famiglia, ha tirato su 3 figli oltre che aver badato a me, io, dato che poi non avrò una pensione decente grazie ai diritti acquisiti di chi non ha pagato quanto ho dovuto, ho pensato anche a accumulare qualcosa per lei, ovviamente, perché e quindi ho un'idea anche se vogliamo alta, diciamo, per fortuna, però è alta. Quindi adesso sono nella situazione in cui se mi succede qualcosa a me, mia moglie si vedrà decurtare la reversibilità perché ho messo da parte qualcosa per lei in funzione di una pensione che farà schifo. Cioè, ecco. Qui siamo all'assurdo. Qua siamo all'assurdo. Questo è il commento di Luca, a cui fanno eco tanti vostri messaggi. Ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico con Fabio Venanzi. Vi aspetto. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Cuore e denari. Dopo 41 anni mia nonna continua a prendere la reversibilità. Mia nonna è già bisnonna, i figli sono... È giusto che mia nonna continui a prendere la stessa cifra che prendeva allora e che è una cifra che è di 3.000 euro al mese? Il governo sta pensando di lucrare sulle vedove tagliando le pensioni di reversibilità, che sono soldi versati da chi poi ha avuto la sfortuna di morire. Abbiamo sentito le voci dei due Mattei, Renzi e Salvini, messi a confronto in questo caso in un servizio di La 7. Da un lato il governo parla di una razionalizzazione delle pensioni di reversibilità, dall'altro dall'opposizione partono le accuse di fare cassa sugli anziani, su chi è rimasto vedovo. Ieri è intervenuto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, definendo queste polemiche totalmente infondate. La proposta di legge delega del governo, ha rimarcato in una nota, lascia esplicitamente intatti tutti i trattamenti in essere per il futuro. Non è allo studio nessun intervento sulle pensioni di reversibilità. Tutto quello che la delega si propone è il superamento di sovrapposizioni e situazioni anomale. Come anticipato, noi a Cuore Denari ci leghiamo come sempre all'attualità, ma non stiamo approfondendo questo dibattito. Cogliamo però l'occasione per fare il punto su tutte le regole attualmente in vigore per l'erogazione delle pensioni di reversibilità. Abbiamo sentito prima delle informazioni sul traffico Luca da Asti, dottor Venanzi, che ha espresso tutta la sua disapprovazione. Allora io le chiederei: che cosa succederebbe nello stato attuale a Luca e che cosa potrebbe succedere? Luca faceva riferimento all'ISEE. Sì, allora il problema innanzitutto, se nel nucleo familiare sono presenti dei figli minorenni, al momento la prestazione comunque non è legata a nessuna verifica reddituale, quindi non vedo perché, non essendo legato oggi la verifica reddituale in presenza di figli minori, lo debba essere poi un domani. Sì. Poi bisogna capire, come ogni cosa, vero, la verifica dell'ISEE, ma a che livello si mette l'asta, cioè praticamente infatti, quale sarà il livello superato il quale si avrà diritto a una minor prestazione o non si avrà affatto diritto alla prestazione, perché non ci dobbiamo dimenticare che non in tutti gli stati europei, per esempio, esiste la pensione di reversibilità o la pensione indiretta così come la conosciamo noi qui in Italia. Quindi però dottor Venanzi, sì, è comprensibile che Luca, così riassumo, faccia un breve riassunto della sua storia: la moglie a carico l'ha scelto da sempre, è stata a casa, ha allevato 3 figli, ha un ISEE alto, perché Luca si è preoccupato di garantire un gruzzoletto alla moglie e alla sua famiglia, e allora dice: adesso se mi succede qualche cosa va tutto in fumo. Al momento lei, più che dire che non c'è nulla di certo, non può dire, ma che cosa però possiamo comprendere, no? Questa... Certo, sì, sicuramente è una preoccupazione che investe più di una famiglia italiana, però non essendoci nulla di certo e soprattutto non c'è un testo effettivamente sul quale ragionare, diciamo che la preoccupazione potrebbe essere prematura, ecco. Allora, abbiamo Sandro che ci chiama da Lucca. Buongiorno Sandro e benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie. Sì, mi dica. No, volevo intervenire per quanto riguarda un figlio disabile che ho, che diciamo, cosa succede nel caso di mia morte? Cosa passa, diciamo, alla figlia disabile? Grazie, grazie Sandro per questa domanda. Dottor Venanzi. Sì, allora, se la figlia disabile, che purtroppo dobbiamo separare il concetto di disabilità dal concetto di inabilità, se il soggetto viene dichiarato, oltre a essere disabile, è anche inabile, allora in quel caso avrà diritto al 70% della pensione spettante teoricamente al papà. Se concorrerà anche la moglie, quindi la mamma della figlia, allora in quel caso la percentuale salirà all'80%, 60 al coniuge, 20 al figlio, alla figlia. 800 24 00 24, un tema che accende naturalmente l'interesse dei nostri ascoltatori, e quindi buongiorno a Walter dalla provincia di Salerno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Il mio intervento è sostanzialmente questo. Allora, mia mamma è rimasta vedova da un anno e attualmente già percepisce una pensione di reversibilità intorno ai 800 euro al mese. Con lei vive mio fratello, che purtroppo non lavora, è precario, diciamo, non lavora continuativamente. E volevo capire i possibili scenari futuri, insomma, come si evolverà la situazione, perché comunque mi hanno detto che, insomma, c'è allo studio la possibilità di che si cambino, insomma, le modalità di erogazione degli imposti, quindi volevo capire e un questo attimo. L'ha preoccupata Walter. Allora, dottor Venanzi, ci vorrebbe la boccia di cristallo, no? Ma esatto, possiamo dire che ad oggi e sicuramente anche per domani la pensione di reversibilità non è a sua volta ulteriormente reversibile, quindi nel momento in cui verrà a mancare la vedova, il diritto alla pensione si estinguerà, quindi non ci sarà nessun altro soggetto che potrà beneficiarne. Al momento non possiamo dare risposte sulla preoccupazione che ha Walter, perché non c'è nulla di certo. Allora, dottor Venanzi, io le chiederei, in questi due ultimi minuti che ci separano dal GR, di farci un po', come chiedo io spesso, il bignamino della situazione. Allora, che cosa ci portiamo a casa da questa nostra puntata? Quali sono le informazioni che ci possono aiutare a leggere meglio le notizie, ad essere aggiornati, a essere magari tranquillizzati o preoccupati? Allora, possiamo dire che sicuramente gli organi di stampa poi divulgheranno tutte le informazioni, tutte le novità. Certo, che Deborah tornerà sicuramente sul tema e la inviterà nuovamente, ma intanto oggi noi possiamo dire che sicuramente il coniuge superstite ha sempre diritto alla reversibilità, naturalmente con la verifica di determinate condizioni reddituali, perché già oggi c'è una verifica che non è legata all'ISEE, ma è legata proprio al reddito annuale del percipiente, quindi abbiamo degli abbattimenti superati i quali la pensione di reversibilità non viene più erogata al 60%, ma in misura inferiore. Poi possiamo dire che se ci sono dei figli presenti a carico del lavoratore deceduto e i figli sono minorenni, questi avranno sicuramente diritto alla prestazione, hanno diritto anche i maggiorenni qualora studenti, fino al 21esimo oppure 26esimo anno di età, mentre se ci sono figli inabili, in quel caso il diritto si estende vita natural durante anche in capo ai figli inabili. Un ultimo punto che possiamo dire, una considerazione più che altro, è che dopo la riforma Montifornero noi abbiamo avuto l'introduzione delle quote contributive, quindi andiamo su prestazioni calcolate sempre più in stretta correlazione a quelli che sono i contributi versati, quindi non si parla più tra virgolette di privilegi come magari possiamo avere di soggetti già pensionati che hanno avuto prestazioni più generose rispetto alle contribuzioni che hanno versato, e quindi magari il legislatore dovrebbe tenere in considerazione che la prestazione già è più bassa di suo per la tipologia di calcolo che viene seguita. Quindi, e andare a ritoccare ulteriormente diciamo le percentuali o comunque una andarla a legare a un all'ISEE o a un qualsiasi altro indicatore potrebbe risultare antipatico e anche poco corretto nei confronti appunto di chi ha lavorato una vita. Grazie al dottor Venanzi per essere stato con noi. Linea al GR, vi aspetto subito dopo per parlare di Udito. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Cuore e denari. Quelli che si sentono un po' rintronati dopo un concerto o una serata in discoteca. Quelli che fanno fatica a sentire i discorsi degli amici in un ristorante un po' rumoroso. Quelli che basta una gita in montagna perché l'orecchio si tappi. Quelli che più li chiami, meno rispondono. Quelli che vanno dal medico. Siete tra quelli? Allora chiamateci 800 24 00 24. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Sandro Burdo, medico, audiologo e consulente audiologo degli istituti clinici di perfezionamento di Milano, che è pronto ad aggiornarci sulle novità che riguardano la prevenzione e il trattamento dei disturbi dell'udito, perché vogliamo aggiornarvi in tempo reale, quindi non esitate a contattarci. Ma naturalmente il dottor Burdo è a disposizione al nostro numero verde per dare consigli, suggerimenti, rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande che riguardano questo senso così importante per la nostra vita. Dottor Burdo, bentornato e grazie. Buongiorno a tutti. Dottor Burdo, partiamo da quelli che più li chiami meno rispondono. C'è una ricerca che potrebbe fare al caso nostro e farci anche risparmiare fiato e arrabbiature. I ricercatori dello University College di Londra parlano di momentanea sordità inattenzionale o selettiva. In pratica, se la nostra attenzione è catturata da uno stimolo visivo, siamo concentrati ad esempio a mandare un SMS o a vedere le immagini del nostro smartphone, con buone probabilità il nostro udito sarà meno pronto, meno sensibile a catturare suoni e rumori. Gli autori della ricerca spiegano infatti che il nostro sistema cerebrale di elaborazione dati, per evitare il surriscaldamento, mette in stand-by, per così dire, gli stimoli che ritiene non direttamente rilevanti per l'attività corrente, come a dire che se chiamiamo nostro figlio impegnato a chattare o a giocare alla PlayStation e lui non ci risponde, la colpa non è sua ma del suo sistema centrale di elaborazione dati, che si troverà da qualche parte nel suo cervello. Quindi non arrabbiamoci, è il sistema. Dottor Burdo, che dice? Certo, ma non è una colpa, è una scelta. È il nostro cervello che sceglie di ascoltare o di vedere qualcosa. Si chiama, in termini generali, si chiama attenzione selettiva, per cui la nostra corteccia è in grado di inibire, ci sono proprio dei sistemi che bloccano e ci rendono momentaneamente sordi se vogliamo, attenzione, concentrarci su qualcosa che ci interessa di più, così che ci rende momentaneamente, diciamo, non attenti con la vista se vogliamo concentrarci su qualcosa di uditivo. L'attenzione selettiva è quindi una delle funzioni principali che ci permettono di migliorare l'ascolto, che non va confuso con l'udito. Certo. Ovvero l'ascolto è dato dall'udito con intenzionale e non è detto che noi vogliamo ascoltare, tant'è che si diceva non c'è peggior sordo di colui che non vuole sentire. Comunque il dottor Burdo ci ha fornito delle ottime giustificazioni per rispondere a chi magari dopo averci chiamato 7-8 volte viene lì e dice ma senti o non senti? Lasciamola qua. In quel momento non sente. Però dottor Burdo, i disturbi sensoriali, in modo particolare quelli della vista e dell'udito, vengono considerati inevitabili conseguenze degli anni. Quindi da un lato c'è una sorta di rassegnazione che porta a non occuparsene, dall'altro però in una società che invecchia ma che non vuole invecchiare, i disturbi dell'età sono spesso taciuti, mascherati, nascosti. Risultato? Si perdono tempo, opportunità e qualità di vita. E forse a rischiare di più sono gli uomini, perché un altro studio presentato tra l'altro al congresso americano di otorinolaringoiatria dimostra la maggiore fragilità dell'orecchio maschile. Infatti gli autori della ricerca, do alcuni dati, hanno analizzando i test audiometrici di 5.290 persone tra i 20 e i 69 anni, si sono accorti che il 13% soffre di perdita dell'udito indotta dal rumore, ma soprattutto che negli uomini il rischio è 2,5 volte superiore a quello delle donne. Dottor Burdo, si spiegherebbero così tante cose, ma che cosa ci racconta questa ricerca, questa maggiore fragilità dell'orecchio maschile? Allora, mi fa piacere ricordare che già la nostra Merluzzi, che è stata una ricercatrice valentissima della Clinica del Lavoro di Milano, fece una ricerca analoga una ventina d'anni fa e dimostrò appunto che i maschi sentono meno delle femmine e sono più soggetti a insulti uditivi. Tant'è che la normativa italiana si basa proprio sui dati normativi preparati dalla professoressa Merluzzi. E noi quando dobbiamo paragonare un udito normale in un maschio usiamo delle tarature diverse rispetto a quello delle femmine. E a questo aggiungo che la velocità di trasmissione del suono in una femmina è più rapido nella parte bassa del cervello di un maschio. Qui ci sono 350.000 spiegazioni, tutte vere e tutte false. Me ne dia due. Ma una cattiva e una buona. Certo, come solitamente fa lei, che poi è sfacciatamente di parte. Allora, la cattiva è che le donne non ci pensano e quindi lo stimolo. No, quella buona invece è che le dimensioni craniche, che questa è quella reale, ovviamente, in una femmina sono inferiori e quindi lo spazio da percorrere è inferiore per quello che è più corto, siamo più rapide. Allora 800 24 00 24, il nostro numero verde è a disposizione, anche il 349 238 6666. Ci manda un messaggio una nostra ascoltatrice: praticamente mio marito è sempre così, non mi ascolta, allora adesso è anche giustificato. Si consoli pensando che è anche un pochino più fragile di udito, dottor Burdo, possiamo dire così. Allora, dottore, al di là delle battute, sarebbe utile ogni tanto fare un controllo del nostro udito, ma a partire da che età e quali sono gli esami che permettono di dare un quadro preciso della situazione e soprattutto chi dovrebbe farlo? Allora, qui il problema è che molti non sono coscienti di sentirci meno, perché in realtà vengono colpite delle frequenze che non ci danno la percezione dell'udito, per cui si sente ma si discrimina e di conseguenza si capisce un po' meno. Per cui il paziente poi alla fine si vergogna perché pensa di avere un problema neurologico, dice in realtà io ci sento ma non capisco e quindi non vado a farmi vedere perché sennò scoprono chissà che cosa. Ecco, bisogna sfatare questo mito, perché chi non sente non è detto che sia sordo come una campana tra virgolette, ma può perdere alcune frequenze che non gli fanno sentire correttamente determinate consonanti tipo la S, la F, la Z. Da qui capisci fischi per fiaschi, perché la parola fischi è la più difficile in italiano da percepire, perché è tutta centrata sulle frequenze acute, che sono le frequenze che vengono per prime perse quando si diventa sordi. Per cui, ripeto, il proverbio capisci fischi per fiaschi potrebbe essere già un test audiometrico per capire se una persona è un po' sorda oppure no. E per chiamare il nostro numero verde e chiedere un consiglio al dottor Burdo, come hanno fatto Giovanni, che ci chiama da Milano, e Linda da Roma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per aver chiamato. Eccoci qua, Giovanni, ci racconti. Ma io ho un problema non tanto di mancanza di udito, quello va bene, è salvo un problema di ogni tanto, ogni 3-4 settimane, mi sveglio la mattina, sento solo da un orecchio sinistro, tutto ovattato e un leggero fischio. E poi questo provoca anche dei dolori dietro l'orecchio, proprio a volte dietro l'orecchio, a volte davanti, che si irradiano verso l'occhio. sono stato dal medico che ha guardato e ha detto che l'orecchio è pulito, a posto e non ha niente. Allora sono andato da, mi ha mandato dall'otorino. L'otorino mi ha fatto le prove di udito, mi ha anche infilato delle fastidiose sonde piccolissime su per il naso per verificare fanno, tutto. Sì, sono un po' sadici, ma devono farlo, dottor. Devono farlo. E quindi Giovanni, lei è riuscito ad arrivare alla causa di questo problema? No, anche perché poi allora, siccome l'otorino non ha saputo che dire, mi ha mandato a fare un controllo ecocolor Doppler delle carotidi e anche una risonanza magnetica alla testa, al cranio. Ecco. E tutte queste hanno dato un esito negativo e quindi non sanno cosa dirmi. Allora, Giovanni, grazie Giovanni, è una bella trafila, però basta questo, dottor Burdo. Si va dal medico per dire, ma mi si tappa leggermente l'orecchio e poi si finisce, no? in un girone dantesco da specialista in specialista. Poi la Lorenzin si arrabbia perché la prescrizione di esami è forse un po' eccessiva. Allora, è probabile che questo signore abbia una ipoacusia, quindi una lieve sordità fluttuante che si evidenzia al mattino. Ci sono delle sordità che vanno e vengono e possono presentarsi con cadenza che può essere mensile ma anche settimanale. Si sente l'orecchio più che chiuso, si sente l'orecchio pieno, questo sì, è l'aggettivo corretto, è sempre accompagnato da un ronzio perché poi penso ne parleremo anche dopo, orecchio scassato per definizione fischia o ronza, sì, essendo fluttuante dura poco tempo e poi si ritorna nella normalità. Qui la diagnosi si può fare solo nel momento in cui c'è il sintomo, per cui andrebbe fatto un esame audiometrico nel momento in cui il paziente ha questo disturbo. Questo per confermare la diagnosi. Diventa molto difficile perché bisogna proprio in questo caso farla al mattino molto presto, quando il nostro Giovanni utilizzare una app sicuramente il signor Giovanni avrà uno smartphone, usa le sue cuffiette, si scarica una app per valutare il proprio udito e si fa un esame dell'udito all'istante. Ecco, questo è un consiglio del dottor Burdo che noi naturalmente riporteremo sul nostro sito. Ci si può misurare anche l'udito da sole, ma nello stesso tempo, se avete qualche problema di udito, qualcosa non vi torna, 800 24 00 24, abbiamo qua un'app in carne e ossa, il dottor Sandro Burdo. Linda, buongiorno da Roma. Buongiorno. Buongiorno Linda. Buongiorno, abbasso la radio. Eccomi qua. Allora, io ho lo problema che citava prima il dottore, mi capita molto spesso, ascoltando radio, televisione o anche un discorso tra varie persone, di non distinguere quello che alcune parole che vengono dette, non riesco a capirle. Linda, sento il rumore, il suono della parola, ma non capisco la parola. Grazie Linda. Un segnale importante, dottor Burdo, che cosa ci racconta della salute del nostro udito? Allora, questo è un segnale, questo che ho descritto dalla signora è un segnale importantissimo, perché la signora ha detto io sento ma non discrimino, e a questo avviene soprattutto con la voce riprodotta, perché la voce riprodotta è ovviamente falsata, la voce elettronica dei televisori, della radio e del telefono non è una voce naturale, quindi non contiene tutte le frequenze e mette in crisi il nostro udito. Se il nostro udito ha già dei problemi, la crisi ovviamente è massima e quindi il paziente non sente più. Quindi questo è un segno tipico di sordità. Dottor Burdo, che cosa si può fare? Ci sono delle novità nel trattamento dei disturbi uditivi interessanti? Sicuramente no, negli ultimi anni ci sono state delle svolte significative. Vogliamo aggiornarlo? Allora sì, no, assolutamente. Allora, sicuramente l'aspetto tecnologico è migliorato moltissimo, protesi acustiche, impianti cocleari, protesi impiantabili, cioè tutta la tecnologia che riguarda la sordità ha avuto un impulso incredibile e oggi è difficile che un paziente non senta bene con gli apparecchi acustici o con gli impianti cocleari. Se questo avviene c'è qualcosa che non torna, o nell'adattamento o nella scelta o addirittura nelle indicazioni, cioè è stato dato qualcosa di sbagliato. Interessante proprio di questi ultimi due mesi la nascita di aziende all'interno di grosse industrie farmaceutiche che si dedicano alla progettazione, allo studio di farmaci che portano alla rigenerazione cellulare della coclea. Allora, qui siamo ancora non nella fantascienza, ma il fatto che delle aziende importanti, posso anche fare il nome, tanto la Glaxo ad esempio, ha creato un brand particolare all'interno della propria azienda per lo studio di farmaci dedicati alla soluzione dei problemi da sordità. E questa è una notizia abbastanza innovativa, insomma. Certo, anche perché a proteggere, a restituire anche l'udito si salva anche la mente. Ci sono tantissime ricerche che mettono in relazione l'udito con le funzioni cognitive. Non sentire bene accelera l'invecchiamento del cervello e secondo alcuni studi addirittura la perdita della materia grigia. Si pensa a un legame ad esempio tra udito e Alzheimer. Che cosa dicono, dottor Burdo, gli ultimi studi a riguardo? Ciò che entra attraverso l'udito è la benzina del cervello, cioè noi alimentiamo il nostro cervello con l'ascolto, l'udito e con la vista, ma più con l'ascolto e con l'udito, perché pensate solo al fatto che dall'udito e dalla comprensione che noi abbiamo elaborato tutto quello che riguarda la lettura. Noi abbiamo imparato a leggere perché sentiamo, certo, non perché vediamo, e così via. Voi capite che l'aspetto cognitivo legato all'udito è determinante. Per cui chi è sordo, alla fine, anche qui il detto popolare dice, ma ci sei o ci fai? Cioè, o sei sciocco o sei sordo? Perché le due cose vanno a braccetto. Comprensione, certo, e udito sono strettamente correlate. Allora, cosa si è evidenziato in questi ultimi anni? Si è evidenziato chi è già predisposto ad ammalarsi di Alzheimer e ha un deficit uditivo, ecco, il deficit uditivo accelera il processo di malattia. Quindi la protesizzazione precoce, cioè l'uso delle protesi acustiche, quando ancora il paziente non ha grande necessità, ma ha abbastanza necessità, è importante anche per prevenire l'evoluzione dell'Alzheimer. 800 24 00 24, proteggiamo il nostro udito, proteggiamo anche la nostra mente e anche e soprattutto la qualità di vita. Spesso i disturbi uditivi vengono trascurati, li accettiamo solo quando siamo molto avanti negli anni. In realtà, dottor Burdo, anche una persona tra i 40 e i 50 anni potrebbe già evidenziare dei segnali che dovrebbero mettergli un po', no, il sospetto. È così? Questi sono, esatto, questo è il problema. Il problema non sono gli anziani, anche le aziende che si accaniscono nel pubblicizzare e nel richiedere l'acquisto da parte degli apparecchi acustici da parte degli anziani. Gli anziani già gli acquistano gli apparecchi acustici, è inutile star lì a insistere. Il problema sono i cinquantenni, soprattutto maschi, che negano l'evidenza e continuano a non sentire fino a 60, 65, 70 anni e lì decidono di mettere l'apparecchio. Ecco, si va in pensione con l'apparecchietto. Si può evitare di andare in pensione? No, ma di mettere l'apparecchietto sì. Ma bisogna metterlo l'apparecchietto, perché qui ci si dimentica che andiamo a scombinare, ma proprio scombinare, tutta l'organizzazione cerebrale, quindi corticale. Per cui un paziente che sente poco a 50 anni, a 70, con la stessa perdita uditiva, avrà dei problemi maggiori, più importanti. Perché? Perché ha un rallentamento della memoria, un rallentamento dell'attenzione e così via. Per cui una perdita uditiva, supponiamo di 50 decibel, a 50 anni è molto più grave a 70, perché viene a essere inficiato l'ascolto, non solo l'udito. Allora, questo grazie dottor Burdo per la chiarezza. Io direi, dottor Burdo, di passare in rassegna un po' le condizioni che potrebbero mettere in difficoltà il nostro udito. Inizierei dal tappo di cerumo, che può essere responsabile di un problema all'udito, anche se fortunatamente temporaneo. Quali sono, tantissimi messaggi riguardano proprio questo aspetto, quali sono i segnali che potrebbero farci capire che si è formato un tappo di cerume tra l'altro che svolge, come lei ci ha insegnato tante volte, un ruolo essenziale, no, per l'equilibrio e il benessere dell'orecchio. Dottor Burdo. Beh sì, il segno principale è che si sente l'orecchio un po' chiuso, facciamo una doccia e si tappa improvvisamente, perché il cerume funziona come i fagioli, le metti i fagioli nell'acqua, si gonfiano, così il cerume si gonfia nel condotto uditivo, quindi una doccia, la sordità da doccia è segno di tappo di cerume. Marisa da Latina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cosa succede quando fa la doccia, Marisa? No, io niente, tutto bene. Io purtroppo già da molto tempo ho un muco retronasale che mi fa sempre ingoiare. Ora ho anche il fatto che mi si tappano le orecchie o una o l'altra e mi impedisce di sentire. Io ho girato già 3 otorini, non trovano niente e se non una leggera ipoacusia dovuta anche all'età, perché non sono più giovanissima. Non si può chiedere l'età di una donna, Marisa, ma più o meno? No, glielo dico. Sì. Solo Marisa, non mi sente nessuno. 68. Allora, tenga presente sì. Però che sono molto attiva. Ma si sente ancora, anche dalla voce. Ecco. Allora, sentiamo se il nostro dottor Burdo saprebbe dare una risposta e un'indicazione alla nostra amica Marisa, a sì, cui allora, i suoi colleghi hanno detto solo una leggera ipoacusia. Allora, se ha una, bisogna vedere che tipo di ipoacusia, perché un po' di catarro nelle orecchie può provocare un po' di ipoacusia e quindi il catarro va tolto. Qui uno dei consigli da dare è, allora, perché una persona ha problemi di questo genere? Perché si chiude la tuba. La tuba è il canale di scolo dall'orecchio nel naso. Se io chiudo il canale di scolo, la tuba si chiude, ovviamente. Certo. Si riempie e l'orecchio si riempie di catarro e noi sentiamo meno. Quindi la cosa da fare è riaprire la tuba, che la signora dice essere ostruita da del catarro, quindi dobbiamo togliere del catarro. Il catarro si toglie in che modo? Con i soliti farmaci, ma a 68 anni è una buona idea andarsi a fare delle belle cure termali con dell'acqua solfurea, dove si fanno anche delle insufflazioni tubariche, ovvero si stoppano proprio le tube inalando dell'acqua termale proprio nella tuba con degli strumenti particolari, e generalmente questo è efficace in questo tipo di sordità. Si fa un giro alle terme, magari anche un giro di ballo. Allora, parleremo poi di otite trascurate, otite ricorrenti che rendono il nostro udito meno sensibile. Parleremo dei rimedi della nonna. Un rimedio in particolare sta tornando in grande auge nella rete, è lo spicchio d'aglio nel condotto uditivo. Dottor Burdo, lei ne ha mai sentito parlare? Sì, ormai non siamo più di primo pelo, siamo vicini all'età della signora che ha parlato prima, e quindi ci ricordiamo, io mi ricordo, sto parlando come Papa, mi ricordo che sì. All'inizio della mia carriera alcuni colleghi, e anche io lo suggerivo, olio tiepido quando i bambini avevano mal d'orecchio con dell'aglio, perché l'aglio ha una funzione disinfettante, quindi nelle otiti del bambino si metteva dell'olio tiepido con dell'aglio. Allora, sì. Devo dare la linea ai mercati, ma abbiamo aperto in questo modo il grande capitolo dei rimedi della nonna. Quali utilizzate, se le utilizzate? Scriveteci e chiamateci, mercati, e poi di nuovo insieme qui con noi. Cuore e denari. Cielo, che orecchie grandi hai, nonnina? Io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara. Servono per sentirti meglio quando mi parli. Aveva ragione il lupo, che ha orecchie grandi sente meglio. Stiamo parlando di udito con il dottor Burdo, 800 24 00 24, per tutte le vostre domande. Insieme al dottor Burdo parleremo naturalmente anche di acufeni, ma anche dei rimedi della nonna, lo spicchio d'aglio con o senza olio tiepido impazza anche nella rete. Il dottor Burdo ci ha confermato che era un rimedio che veniva utilizzato per le otiti dei bambini. Voi quali rimedi utilizzate? E soprattutto, dottor Burdo, dovremmo tornare a parlare del famoso tappo di cerume e della pulizia dell'orecchio prima di dare lo spazio agli acufeni. Ma intanto saluto anche il professor Ernesto Di Pietro, che è osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale, che è in linea con noi per spiegarci che con una bella tirata d'orecchie può essere risparmiata addirittura la cervicale. Buongiorno, professor Di Pietro. Ma buongiorno a voi e grazie di avermi invitato anche oggi. Un buongiorno anche al dottor Burdo. Allora, chi orecchie per intendere intenda, abbiamo detto che una tirata d'orecchie potrebbe alleviare o prevenire il dolore al collo. Ma sì, perché immaginate tutti, quando si ha un'ipoacusia, cioè ci si sente un po' meno. Se ci si sente un po' meno tutte e due le orecchie, noi sporgiamo il collo in avanti per cercare di ascoltare meglio. Se invece è uno solo ed è sbilanciato l'udito, cioè il destro si sente meno, noi ruoteremo verso sinistra il collo per cercare di aiutare di più l'orecchio che ci sente meno. Questo che cosa fa? Che per migliaia anche di se volte, lo facciamo inconsapevolmente, sì, perché assolutamente giusto. Sì, e sono micromovimenti. Una cervicale che ha già qualche piccolo danno, qualche problema, chi non ha un piccolo problema di cervicale in fondo, può essere una cosa che dà dei grossi problemi fino ad arrivare a dare dei dolori cervicali notevoli. Allora dovremmo provare in qualche modo a sbloccare un po' la situazione. E se vuoi posso darvi un piccolo esercizio da fare anche noi siamo pronti. Allora, se siete in ufficio, se siete in macchina, mi raccomando non mentre guidate, come sempre vi dico, ma accostate un attimo. È una cosa molto semplice. Prendiamo, cominciamo dal braccio destro. Con il braccio destro lo facciamo passare sopra la nostra testa, sì, fino ad afferrare l'orecchio sinistro. Ok. Ci siamo? Bene, prima di strattonarlo dovete fare questo. Il vostro mento spingetelo fuori il più possibile, proprio estroflettete il mento, in questo modo lavoriamo sull'articolazione temporomandibolare che è molto vicina alla zona dove passa poi il padiglione eccetera eccetera dell'orecchio, ma questo poco importa. Allora, buttiamo fuori il nostro mento e poi col mento in fuori spalanchiamo la bocca. In questo momento afferriamo l'orecchio e spingiamo la nostra testa col braccio verso destra, verso la spalla destra. E facciamo questo movimento per 3 volte. Da una parte e dall'altra. E poi dall'altra. Quindi fuori il mento, spalancare la bocca il più possibile e con la bocca aperta afferriamo l'orecchio e portiamo prima verso destra con il braccio destro la testa, poi rifacciamo la stessa cosa col braccio sinistro. E noterete subito un bel sollievo per il nostro collo. Allora, se volete nel frattempo farvi fare un breve filmato da un vostro amico, mandatecelo, noi lo postiamo. Professor Di Pietro, insomma, in queste posizioni non è che diamo il meglio di noi, però aiuta. Lo posti anche lei. Strappiamo un sorriso. Sa che strappando un sorriso quanto bene facciamo tutti? Assolutamente d'accordo. Grazie, professor Di Pietro. Buona giornata. Grazie. Complimenti per la trasmissione, è proprio bella, la sto ascoltando. Grazie, grazie di cuore. Allora, dottor Burdo, noi abbiamo tantissimi ascoltatori che si mettono in contatto con noi. Abbiamo ad esempio Federica dalla provincia di Livorno, Emanuela da Milano. Federica, buongiorno. Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Ma grazie. Federica, allora, andiamo il a noi. Mio padre ha 78 anni e ha un problema di mancanza di udito per le conversazioni multiple. Sì. Cioè, lui sente benissimo le persone una a una quando parlano, però non sente a metterle insieme, certo. Sì. E volevo sapere se esistono degli apparecchi acustici che hanno la possibilità di far fronte a questo problema. A questo problema. Dottor Burdo, un SOS che lancia Federica, sono tanti i nostri ascoltatori che ci raccontano quanto difficile sia convincere il padre o la madre ad affidarsi ad una protesi e delle loro tante insoddisfazioni, perché sembra che poi alla fine si comprano le protesi e la persona anziana poi è disturbata in qualche modo, le lascia nel cassetto. A proposito di cuore denari. Ecco, su questo a favore dell'Italia è appena uscita una statistica dove si dimostra che il 70% degli italiani che comprano gli apparecchi poi le usano, a fronte del 50% dei paesi diciamo più evoluti, tipo Germania, Paesi del Nord. Quindi su questo siamo più bravi più degli altri. Attenzione, siamo meno bravi perché ne compriamo meno, cioè le persone che vanno ad acquistare gli apparecchi sono in numero inferiore rispetto a quelli che ne avrebbero necessità. Allora il papà della nostra amica ha difficoltà. Mi piace molto la domanda perché, perché uno dei sintomi principali delle sordità, chiamiamole percettive, cioè quelle non legate alle otiti piuttosto che ai tappi di cerume, piuttosto che agli ossicini che non funzionano, e sono generalmente localizzate nella coclea. La coclea è il microfono dell'orecchio ed è l'equivalente della retina. Quindi la coclea è quella che analizza anche il suono, la parte nobile. Ora, i pazienti che hanno un problema di coclea, sono la maggior parte, sentono meno, sono un po' sordi, sentono meno nel rumore perché hanno un deficit di attenzione selettiva, mm-hmm, e non discriminano bene perché la coclea è l'analizzatore, quindi, come dicevamo prima, alcune consonanti non vengono discriminate. Allora, mi permetto di dire che non è vero che il paziente sente bene i singoli e sente molto male i multipli, cioè quando c'è un po' di rumore. Diciamo che sente meno quando, male i singoli, ecco, e male... Ecco, nella quiete si arrangia, diciamola così, sì, e invece si perde completamente quando ci sono più persone che parlano. È probabile che questo signore fosse fosse abbastanza sordo prima di entrare in pensione, quindi, come dicevo prima, sui 50 anni, e a 50 anni noi abbiamo delle risorse che ci permettono di superare le difficoltà e anche, tra virgolette, di barare un pochino. Poi, questo soprattutto i maschi, quindi lo dico a mio sfavore, poi quando si entra in pensione si dice senectus ipsa morbus, per cui automaticamente sono sordo da età. Non è vero, eri già sordo prima, e se lei mette l'apparecchio dopo aver subito gli effetti di una sordità per 20 anni, l'apparecchio non può ripristinare parti del cervello che sono usurate, non ho detto parti dell'udito, parti del cervello, e questo è il punto. Ecco perché è necessaria la prodiazione precoce, perché poi si arriva a nella terza età non si hanno più le risorse mentali per superare il deficit uditivo. Cioè non riusciamo più, ha capito, a mettere in atto chiaro delle strategie. Certo, punto. Quindi chi ha tempo non aspetti tempo. E allora, dottor Burdo, se lei è d'accordo, noi li abbiamo ascoltati all'inizio della puntata, li abbiamo fatti come una sorta di test di ammissione per questa seconda parte di Cuore Denari. Allora, dedicato agli uomini in modo particolare, ma naturalmente anche alle amiche di Cuore Denari, età intorno ai 50 anni, 50, 55, insomma, comunque prima dell'età della pensione, sentite questi suoni, poi 800 24 00 24, dopo le informazioni sul traffico ci chiamate, cerchiamo di capire se li abbiamo riconosciuti, cosa sono, quali sono, a tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta. Cuore e Denari. Ultima parte di Cuore Denari, stiamo parlando di udito, chi ha tempo non aspetti tempo, non aspettiamo di andare in pensione, tra l'altro di pensioni di reversibilità abbiamo parlato proprio nella prima parte della trasmissione, naturalmente potete come sempre riascoltare la puntata. In linea con noi il dottor Sandro Burdo, pronto a rispondere alle vostre domande e a darci delle indicazioni e dei consigli. 800 24 00 24, c'è ancora tempo per prenotare i vostri interventi. Intanto, dottor Burdo, abbiamo fatto sentire questi suoni tra loro diversi che potrebbero avere però un denominatore comune. È corretto, dottor Burdo? Assolutamente sì, assolutamente. Perché sì, sono suoni che noi possiamo sentire come molto intimi, che possiamo anche avvertire dentro di noi, è corretto? Sì, sì, noi abbiamo una memoria uditiva così come esiste una memoria visiva. Noi i nostri ricordi possono essere ricordi visivi come quelli uditivi e come quelli olfattivi. La nostra memoria sensoriale esiste ed è una realtà. Allora, abbiamo quindi fatto una sorta di test in cui abbiamo misurato sia il vostro udito sia la vostra memoria. Allora, abbiamo in linea Salvatore da Milano. Buongiorno Salvatore. Buongiorno signore, buongiorno anche al dottore. Buongiorno a lei. Eccoci qui. Hai riconosciuto i suoni? No, i suoni non l'ho riconosciuti. Ma ci ha provato? Ci ho provato ma non li ho capiti. Neanche uno, Salvatore? Neanche uno, perché forse ero distratto, forse per quello. Perché uomo. Allora, dottor Burdo, iniziamo a dire, nel caso di Salvatore, non siamo capaci a riconoscere neanche uno di questi suoni. Qual è l'informazione che... Il problema è abbastanza serio, vuol dire che è abbastanza sordo. Lo ripeto, ci sono delle persone di mezza età, e oggi sono giovani, perché oggi 40-50 anni si è giovani, non si è come una volta di mezza età, che hanno delle ipoacusie. E delle non lo diciamo età. Perché abbiamo questa età, no? Brava. e riescono a sopperire in altri modi, spesso anche barando, al deficit uditivo. E questo è il problema. Queste persone sono destinate a passare una vecchiaia infelice, perché non capiranno i nipoti, mettono le protesi, le buttano via, non avranno più la possibilità di comunicare normalmente. Questo è il punto. Questo è il punto. E allora, se state attenti, rimandiamo i suoni. Allora, questi sono i suoni, 800 24 00 24, ma abbiamo sempre in linea con noi Salvatore da Milano, che i suoni non li ha riconosciuti, ma voleva fare una domanda al dottor Burdo. È corretto? La mia domanda, comunque adesso i suoni l'ho capito, perché ho visto che c'era tanto vocio e quindi sono stato più attento. La mia domanda, professore, è: a un periodo di tempo che mi succede che quando ascolto la musica o mentre che sto conversando con delle persone, mi arriva dentro l'udito una voce metallica, non limpida. Non mi succede spesso, per fortuna, però vedo che anche ieri sera, mentre che parlavo al telefono, vedevo che mia moglie mi parlava metallica, anche a voce naturale. Non capisco il perché. Grazie. Dottor Burdo, la voce metallica della moglie. Allora, sospetto. Possiamo fare una serie che non faremo. No. Due possibilità. La prima è che abbia un telefono che in certi momenti non funziona bene. Cioè, i telefoni hanno delle parti meccaniche, soprattutto gli altoparlanti del telefono, che possono alterarsi e produrre un suono metallico. Quindi la prima cosa da verificare è che non sia il telefono. La seconda? La seconda è che invece abbia un problema di udito, ovvero... Abbiamo detto che la coclea analizza i suoni e spesso una perdita sugli acuti fa sentire dei suoni o eccessivamente cupi, ma se abbiamo una perdita sui gravi, una perdita uditiva sui gravi, sentiamo i suoni troppo metallici. Quindi lei un controllino lo suggerirebbe? Assolutamente sì, però prima proverei anche un altro telefono. E non un'altra moglie. Emanuela da Milano, buongiorno. Buongiorno, io invece ho percepito il battito cardiaco, sì. Il suono del mare, sì. Mi è sembrato di percepire un fischio con due tonalità diverse e alla fine un vociare non ristrano. Fantastico, Emanuela! No, mi spiace perché un ascoltatore mi scrive che eleganza le femministe che si credono migliori. Ma Emanuela, mi dispiace per questo ascoltatore, in questo caso ha riconosciuto, ecco, nonostante donna. Dottor Burdo, proprio perché donna forse? Proprio il femminismo donna, non c'entra nulla. È stata attenta e attenzione, ci sono delle persone con una lieve sordità che questi suoni li possono sentire. Qual è il problema? Il problema è che loro devono concentrarsi molto ma molto più di noi, per cui la loro giornata finisce invece che alle 20, finisce alle 16, perché la loro attenzione viene a cadere a un certo punto. Mi spiego. Certe sordità possono essere compensate aumentando l'attenzione, ma aumentando l'attenzione noi ci stanchiamo, per cui diventiamo irascibili, nervosi, ci deconcentriamo quando la giornata è finita. Dottor Burdo, l'avevamo promesso e facciamo un rapido aggiornamento sul grande capitolo degli acufeni. Acufeni sono quei suoni, quei fischi, quei ronzii, quei tintinni, quegli scrosci, i ruscentelli, chi più ne ha che più ne metta, anche il battito del cuore che noi avvertiamo dentro l'orecchio quando siamo in silenzio o non solo. Possono essere temporanei o durare tutta la giornata, riacutizzarsi. Dottor Burdo, ci sono, quando l'orecchio suona, lei ha sempre detto, un segnale forte e chiaro lo dà, e cioè? Assolutamente, vuol dire, allora, se sentiamo degli acufeni vuol dire che c'è qualcosa che non va o nell'apparato uditivo o vicino all'apparato uditivo. La causa più frequente di problemi, di cause, la causa più frequente di acufene per problemi vicino all'apparato uditivo è l'ipertensione. Perché la carotide passa vicino alla coclea, abbiamo detto che la coclea ha il microfono all'orecchio, se aumenta la pressione è come mettersi con l'orecchio in riva a un ruscello, sentiamo il correre delle acque, insomma. Quindi misurare la pressione. Assolutamente. Questa, allora, la pressione, l'aumento di pressione dà un acufene acuto, un fischio, tipo quello della capostazione, per intendersi. Sì. E quello è un segno di ipertensione inequivocabile. Chi è affetto da questa patologia sappia che se sente l'acufene vuol dire che gli è salita la pressione. E questa è la causa più frequente. Di acufene non legato all'udito. Quando invece avvertiamo... No, vada lei, è lei il Torino, l'audiologo. Il problema è che la maggior parte delle sordità provoca un acufene e quindi rientra nei sintomi della sordità. Dov'è il problema? Il problema è che purtroppo molti gestiscono l'acufene come se fosse una malattia a sé. Diventa una malattia a sé se si va oltre, come si può dire, illecito. Illecito significa accettare un sintomo. Faccio un esempio. Se io mi rompo un braccio, vado dal medico e chiedo che mi aggiusti il braccio, non che mi tolga il dolore, perché è conseguenziale uno all'altro. Sì. Così, se io ho un acufene e una sordità, non devo andare dal medico e dire della sordità non mi interessa nulla, mi tolga l'acufene. Perché l'acufene non puoi toglierlo se non guarisci la sordità. Sembra ovvio, ma è un'ovvietà che da sempre non viene presa in considerazione. Ancora una volta, perché i disturbi dell'udito, insomma, sono dei disturbi che facciamo fatica ad accettare, cioè facciamo fatica, sì, ad accorgerci proprio che il nostro udito sta perdendo un po', no? Salute, sì, vitalità, e nello stesso tempo anche accettare, perché lo associamo naturalmente a un problema dell'età che passa, dell'invecchiamento e quant'altro. Però il messaggio di oggi è forte e chiaro: occupiamoci dell'udito ancora in tempi non sospetti, intorno ai 50 anni, cogliamo i segnali che insieme con al dottor Burda abbiamo cercato così di sottolineare e misuriamo il nostro udito. Si può ancora fare qualcosa. Dottor Burda, prima di salutarla, e a proposito di ascolto, vorrei farle ascoltare un estratto della testimonianza di Cinzia, che è una mamma di Emanuele, che è la prima storia di Più Unici Che Rari, è un progetto che vede Cuore Denari a fianco a Teleton per parlare di malattie rare. L'ascoltiamo insieme, così la facciamo anche ascoltare ai nostri ascoltatori di Cuore Denari, che invitiamo ad andare sulle pagine del progetto. Cosa vuol dire vivere con una malattia rara? Non lo so ancora dopo 6 anni. Vuol dire vivere un'altra vita, vuol dire tutti i giorni fare quello che fanno tutti con un po' più di fatica, questo sì, ma allo stesso tempo con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di sorridere, di ridere, di ballare, di correre, anche se il mio bimbo non lo può fare, magari lo fa con me in braccio come gli altri. Quello che vorrei dire in questo spazio è che sinceramente noi genitori, come i bambini che non stanno bene, non abbiamo bisogno di compassione, non abbiamo bisogno di una pacca sulla spalla, abbiamo bisogno semplicemente di ridere, sorridere, di sperare come tutte le altre famiglie, come tutti gli altri bambini. Allora, non hanno bisogno di compassione, ma hanno bisogno di condivisione. Allora condividiamo queste storie, condividiamole con la nostra quotidianità, le nostre pagine del progetto vi aspettano. Dottor Burda, naturalmente, è invitato anche a lei, la ringraziamo per essere stato con noi, buona giornata. Andate a leggervi la storia di Emanuele, la trovate sulla nostra pagina. Ascoltate e lasciate un vostro messaggio. È un'iniziativa a cui teniamo particolarmente, abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Buona giornata, domani torna Deborah.